Bentornate, bentornati a Cabaret Voltaire. Allora, questa sera ho deciso di invitare, dopo Oscar e Elga, un altro spettacolo teatrale di Rossella Raimondi, a cui abbiamo appena assistito, che si intitola Medea delle case popolari ha perso il centro, e che potrebbe fuorviarvi pensare che si tratta della Medea di Euripide, invece no. Invece ci sono altri riferimenti, faccio già spoiler. Sì, poi ci arriviamo magari. Ci arriviamo. Allora, da quello che ho capito, in realtà l'ispirazione che hai avuto è stata più dalla Medea di Alvaro o di Christa Wolf. Quindi sì, una rivisitazione della Medea più che vista come, diciamo, appunto la barbara che uccide i suoi figli, come tra l'altro dice all'inizio dello spettacolo, più come invece una rivisitazione di lei come donna straniera, emarginata e non, come dire, appunto accolta dalla cultura corinzia, no? E quindi di questa donna incompresa e in qualche modo barbarizzata lei stessa. Quindi rivedere la Medea un po' in questa chiave, trasposta nel moderno, come una chiave per capire la paura dello straniero, la paura del diverso, che forse purtroppo ancora è dominante nella nostra cultura e politica odierna. Comunque, esatto. Non lascio la parola a Rossella, che sicuramente racconterà meglio lo spettacolo. Quindi no, forse partirei appunto dallo spettacolo stesso, visto che abbiamo appena finito di vederlo. Se vuoi raccontarci un po' da dove è nata la tua idea, quali sono stati i riferimenti anche per la creazione del tuo spettacolo e i tuoi intenti nel pensarlo e nel crearlo. Sì. Allora, è partito tutto dal... Faccio parte di un gruppo di teatro di cittadinanza che si chiama Teatro degli Incontri, diretto da Gigi Gerzi e tutto da un'equipe di persone. E con loro abbiamo iniziato proprio a lavorare con le comunità, portando però dei testi classici, proprio della tragedia greca. Mi ricordo che abbiamo fatto un'Antigone spettacolare, una festa d'Antigone tutto il giorno, quando eravamo dentro al centro dei rifugiati, quello in Viale Jenner, e abbiamo proprio lavorato con i rifugiati e con i nostri riferimenti di Antigone, con i loro testi, con una miscellanea, e veramente uno scambio potentissimo di questa cosa. Poi siamo passati a Medea, abbiamo fatto Fiera Medea ed eravamo tutti all'ex Pini per il festival Da Vicino Nessuno È Normale, e abbiamo fatto questa grande fiera dove ognuno, studiando prima la Medea di Euripide, quindi tutti i passaggi drammaturgici, la storia della Medea in gruppo, dopodiché ognuno ha scelto il proprio riferimento, quello che più lo colpiva, che più lo interessava, quello di cui voleva parlare. Avevamo diviso abbiamo frammentato il testo dal vello d'oro, le regole, c'erano vari punti di riferimento. E studiando, poi leggendo le Medee, c'è un libro meraviglioso dove ce ne sono già qua, ce ne sono quattro diverse, questo qua di Medea, cioè parte da Euripide, poi c'è Seneca, Grilparzer, Alvaro, e poi c'è appunto le voci della Wolf, e già non qua è Virginia ma Christa, non è Virginia, no, ma Christa Wolf, e già qua ci sono dei punti di vista completamente diversi, cioè veramente tanto diversi, no? Tanto diversi. E quindi a me è piaciuto molto, vedendo Medea, ma anche perché mi ricordo che io vidi, sempre nello studio di Medea, io vidi il film di Pasolini, e mi ricordo di questa figura nera, meravigliosa, che era la Callas, che segnava questo cerchio, in mezzo al deserto, no? Al deserto. E questo Giasone, che era un po' stupido in questo, cioè era un po', a me sembra un po' un pirlotto, no? Un po' quello lì, no? Gli Argonauti, questa cosa. Poi gli Argonauti iniziano proprio, sono gli iniziatori della violenza contro le donne, tra l'altro, quindi c'è tutta una cosa dietro all'Argonauta. E quindi ho visto questo bianco e questo nero, infatti sono vestita di bianco e di nero con questa Callas meravigliosa e questo cerchio, no? Questo cerchio, lei che già nel viaggio, lei già nel viaggio per arrivare in Grecia era già persa. Già lei non si trovava più, erano morti il fratello lì nel carro, uccisi probabilmente da lei, e lì ci sono varie teorie. E quindi La sua dipartita verso il mondo sognato, il mondo, l'amore, il mondo occidentale, il mondo civilizzato, perché Medea è una barbara che viene dalla Colchide, già ha creato quella, in lei un'inquietudine, un seme della perdizione, di non trovare più i suoi punti di riferimento. E quindi io sono partita da quello, quindi Alvaro mi ha aiutato tanto, perché lui vede la Medea, proprio Medea addirittura vive fuori da loro, vivono fuori dalle mura, la casa non è nelle mura, è fuori dalle mura, quindi sono già reietti, diciamo, già stranieri per i greci, e quindi questa cosa a me ha colpito molto. Poi la vita porta verso direzioni altre. Intanto ho osservato quello che è questo indirizzo di cui io racconto, e dove in quel periodo io stavo leggendo questo testo magnifico che invito, di Daniel Pennac, che è il signor Malusien, e vedevo questa torre di Babele enorme con lui sfigatissimo, che gli succedeva sempre di tutto, cioè veramente una cosa, il capro espiatorio, no? Quello che si dice. E ho messo insieme un po' i pezzi, cioè ho messo insieme un po' i pezzi. Lo stendino, la cosa strana, mi dico, ma com'è che ti è venuta questa idea dello stendino? L'idea dello stendino semplicemente perché io, passando sotto un balcone, ho visto questi stendini legati fuori, esattamente legati fuori col filo, col filo di ferro. E questo prendersi anche uno spazio altro, no? Dello straniero, questo prendersi del migrante, di chi non ha spazio altrove, questo anche molto figurativo, a me ha colpito. Ho detto, io provo a mettere uno stendino in scena. Poi lo stendino è stato il motore di tutto, alla fine, ha creato tutti i personaggi. Alla fine ho riscritto proprio Medea, perché Medea è... Cioè ho ribaltato, no? La visione di un'italiana che si sente straniera in un palazzo di Milano, di una città come Milano, dove sono tutti stranieri, tutti hanno forti le loro tradizioni, fanno questa festa, dove tutti mantengono le loro tradizioni, e lei voleva solo essere chiamata dal centro, vivere in centro, cioè avere quella vita che forse sognava anche Medea vera, la Medea originaria, no? Avere quella vita lì, quel riscatto lì. E quindi quando non si ha, quando la pienezza della propria vita è raggiungibile, il capro espiatorio è, non puoi essere sempre tu, lo cerchi nella colpa, in qualcos'altro, lo cerchi in qualcosa che dà fastidio un po' a tutti, cioè devi dare la colpa a qualcuno. In qualche modo, no? Come la storia ci insegna. Come la storia ci insegna, devi dare la colpa a qualcuno, perché questo è molto rassicurante in generale. Quindi il nero, la colpa, il male, viene sempre da lontano, è sempre qualcosa che tu... Che è diverso da te. È diverso da te, viene da lontano, è riconoscibile, lo sai che c'è, ma viene da lontano e ti colpisce. Quindi tu quello devi combattere. È più semplice, paradossalmente, no? Combattere. Beh, quello sì, ti deresponsabilizza, no? Cioè invece, certo, di trovare la problematica dentro il tuo sistema, lo scarichi su un sistema che è diverso dal tuo. Esatto, cioè il signor Malusien è il capo espiatorio, no? Però nel suo sistema di vita tutto accade in maniera assolutamente magicamente perfetta, poi dopo tutto si incrocia in un modo assurdo in questo cinema dove vivono, questa nonna che rimane sempre incinta, questa cosa, cioè questa roba, queste vite che tu dici che sono, non lo so, così assurde ma così vite. Così vite, tanto piene di vita, no? Proprio che è un po' come io personalmente vedo un po' gli extracomunitari, hanno quelle vite piene di vita come era la vita mensile dei miei nonni, forse, quella roba lì, quel bisogno di comunità. Sì, quel bisogno di comunità, di essere insieme, quel bisogno di viversi. Di viversi, no? In ogni caso, sempre. E quindi è nata, diciamo, una idea che cerca invece in questo di sublimare questa cosa in un atto purificatorio, cioè cercando di ripulire completamente, di mandare via questo atto che è un mix tra l'atto teatrale, un po' anche di denuncia, diciamo, o comunque portatrice, no, di questo bisogno magari dei grandi teatri, dei grandi luoghi dove dire delle cose. E quindi e non invece l'off perché non puoi vivere, però poi dove c'è la vita vera, no? Dove c'è lo scambio, dove arrivano degli spagnoli, magari non capiscono una parola, però capiscono tutto. E dico, miracolo, no? Mira come stasera. Dici, miracolo, hanno capito tutto. E ho fatto anche cantare una canzone fascista, cioè per dire. Quindi... E questa cosa qua per me è importante, è la vedere come Medea cerchi disperatamente di creare un atto che anacronistico, perché è un atto anacronistico quello che fa Mesian, murarsi viva in un appartamento e cercare solo con la mucchina, stendino e candeggina e compiere questo atto purificatorio verso il centro. L'atto purificatorio in se stesso per avere il bianco dello stendino è assolutamente qualcosa di anacronistico, perché non c'è più. Cioè siamo tutti meticciati, siamo tutti meticci, siamo tutti una miscellanea ormai. È irreversibile il processo e qui bisogna darsi pace su questo. È irreversibile. Non c'è più quelle che venivano chiamate razze. Di fatto mi chiedo anche se sia mai davvero esistito, cioè nel senso che penso anche alla realtà da cui deriva Medea e quindi fin da quei tempi mi chiedo se questa cultura, questa tradizione che tutti difendiamo come se fosse determinante della nostra identità e da quello da cui veniamo, no? Cioè, quindi anche Medea nello spettacolo dice che grazie a questo riconquisteremo, riavremo il nostro spazio, la nostra voce. Di fatto su cosa si fonda? Cioè qual è una cultura che effettivamente è pura in che senso, no? Cioè che è questo il ridicolo che un po' penso, no? La sì. Retorica di questa filosofia, cioè la tradizione che di per sé penso che io credo che fondamentalmente che sia molto importante, cioè l'errore che credo socialmente si sia fatto è quello di pensare che la tradizione possa essere persa e quello è un peccato, come i dialetti per esempio sono un peccato, è un vero peccato, ma un conto è decidere di non perdere la tradizione, un conto è pensare di poter vivere, non so, chiusi per altri 50 anni in un paesino di montagna sempre la stessa famiglia dove non arriva nessuno. E questo nel mondo è impossibile, cioè abbiamo visto che è impossibile, ma abbiamo anche visto che le persone più belle, le persone più forti, tra gli animali, le piante, tutti gli esseri viventi, senzienti o non senzienti, anche le rocce che si mischiano, creano le cose più meravigliose. Creano le cose più, sono le cose più belle che ci sono. E quindi... puoi decidere di mantenere la purezza di una rosa, ma non puoi evitare a un'ape di impollinare quella rosa con un'altra rosa, con un altro fiore, e che nasca un altro fiore meraviglioso. È una cosa, secondo me, io non so come si possa pensare una cosa del genere, non ho idea di come si possa arrivare a pensare una cosa del genere. Lo trovo assolutamente, cioè è quasi non so, magico, mi viene quasi da ridere, nel senso che, ma se fosse così, no? Secondo me è la paura. La paura è un tema. È un tema, no? È un tema. Abbiamo visto i biglietti, no, che io faccio scrivere. Infatti, a Milano o dove vado, ho paura quando, poi, e mi sento straniero quando ho paura, quando mi sento straniero. Cioè, io ho non so quante centinaia di questi biglietti, prima o poi farò una mostra, ma ci sarebbe da fare solo uno spettacolo su quello, solo sulla lettura dei biglietti. Cioè, potrei stare un'ora a leggerli tutti, che il pubblico non si annoierebbe. Perché è veramente, al di là, no, delle battute che faccio, è veramente importante, cioè le cose che mi scrive il pubblico, le cose che mi scrive tutto il pubblico, e sono molto, molto preziose. La paura è il mezzo con cui noi siamo veicolati, è il mezzo culturale con cui noi veniamo veicolati in questa cosa. Sì, ed è anche cioè la cosa che ho trovato interessante poi alla fine dello spettacolo è stato che questo centro che tanto Medea brama, alla fine è un centro totalitario, no? Quando arriva, di fatto è dominante. Sì. E quindi tu dicevi, giustamente l'hai associato alla gentrificazione, e quindi nel momento in cui arriva quel centro, in realtà non è un centro liberatorio, no. Non è un centro inclusivo, è un centro affossante, no? Sì, sì, mette la sua egida, dominante, prende, esatto. compra, fa suo tutto, fa suo anche le tradizioni, diventa il siringhito dello street food no, portoricano, però ti pago 20 euro... capito, siamo a Milano, però allora vado al parco quando c'è la festa dei portoricani e lì non sbaglio, perdissimo, no, street, esatto, food, cioè, voglio uno scambio, per dire. Come dire, il paradosso di questa paura, cioè pensare che di fatto difendere questa cultura, questa tradizione abbia un valore liberatorio, rassicurante, quando di fatto è una, cioè un vietare la libertà, cioè è un affossare. Esatto, è come se chi lotta per preservare, diciamo, questa ipotetica appartenenza, anche se oggi poi stiamo parlando adesso di uomo, stiamo parlando di razza, tra virgolette, no? Abbiamo visto che basta fare un test del DNA e tu sei africana, io sono, so, cingalese, quello arriva da non so che ceppo, quindi non è così, cioè non è proprio così, proprio geneticamente non può essere così. E è una cosa pazzesca anche pensare di chiudere le frontiere. Io quando ho studiato come è nata l'agricoltura ho detto, ma cioè, il fatto di impedire lo spostamento delle persone è adesso, è contemporaneo. L'agricoltura nasce per un effetto di nomadismo e non distanzialità, perché nasce sì come un momento di stanzialità, ma viene portata altrove perché quella stanzialità viene lasciata perché poi non c'era più spazio, e quindi l'agricolo si sposta di nuovo e va a conquistare un nuovo terreno. Quindi tutto nasce grazie al nomadismo, all'espatrio, all'andare. E nessuno impediva a qualcun altro, cioè i confini sono una cosa recentissima, quello di impedire. Come fai a impedire una... cioè nessuno parla, quello che mi fa arrabbiare molto ad esempio è che nessuno parla del cambiamento climatico in Africa. Noi parliamo del nostro cambiamento climatico, ma se noi a Milano non riusciamo a vivere perché abbiamo 45 gradi, ma un africano come fa a respirare? Come fai a pretendere aiutiamolo a casa sua? Ma come fai a aiutarlo a casa sua se non c'è più aria da respirare? Se è tutto laterizzato, se non c'è acqua, c'è il fuoco. nessuno lo dice, cioè non è possibile questa cosa, è veramente ridicola, no, al pensiero, cioè sì, è ridicola, anche se di fatto ce lo diciamo noi qua in sala, noi. Ma di fatto non è così perché si lavora sulla paura, cioè Monsieur Maloussien viveva della paura perché era sempre colpa sua. Lui viveva nella paura costante di essere arrestato, che se c'erano casini, comunque qualcuno lo veniva a prendere, a bussare al campanello e a cercare. È un po' questo anche. Poi un altro riferimento di ultima generazione, invece di ultimo momento, che ha cambiato un po' il mio testo di Medea, adesso non ce l'ho qua, ed è un libro che... No, è questo... La mia impronta è questa. È un libro che consiglio a tutti, che spero leggiate tutti, perché è veramente impressionante. È Come sfasciare un paese in 7 mosse. Questo libro è di Ece Temelkuran, una attivista, scrittrice, autrice turca che ha 50 anni, forse più giovane di me, 51 anni credo, o del 51. Comunque non, in vita, e che racconta le 7 mosse dell'ascesa, praticamente... dell'ascesa dei poteri contemporanei adesso, dei poteri contemporanei, i 7 punti per sfasciare un paese, per sfasciare la democrazia, le democrazie del paese, e sono impressionanti, perché poi li ho messi io nello spettacolo, qualcosa ho messo, è primo, il primo punto è crea un movimento, crea il movimento, che vuol dire crea il movimento del popolo vero, io lo dico. Cioè, ritorniamo al popolo vero, ma che cos'è questo popolo vero? Come se non esistesse più un popolo, no? È praticamente siccome la politica è non deve fare nulla, perché la politica non può cambiare, il movimento è ciò che cambia, può essere positivo, ma questo movimento dà la forza a chi lo segue, a chi lo fa nascere, di avere poi fiducia, di cogliere la fiducia di quel popolo che è sfiduciato nei confronti della politica, che non cambia mai, che non può cambiare, perché è lo stilema della politica, è stagnante, è veramente stagnante. Quindi creare un movimento, disgregare la logica, spargere il terrore nella comunicazione, e qui ragazzi, cioè chi più ne ha più ne metta, cioè, è una banalità, la banalità del mare, no? Del famoso libro abolisci la vergogna, essere immorali è figo nel mondo post verità, cioè essere immorali è interessante questa cosa, dichiararsi apertamente fascista ed essere fighi ormai è figo, cioè Io sono un presidente della Repubblica che dice io non posso essere antifascista perché il termine antifascista è stato praticamente coniato da chi voleva una dittatura, e maltrattato, il termine fascista è stato maltrattato e reinventato da chi, sono proprio dichiarazioni queste, da chi voleva invece una dittatura ben più terribile di quella fascista, quindi non è vero che il fascismo era quello, quindi c'è proprio la essere proprio sfacciatamente sì, folli. Sfacciatamente, e essere anche, darsi proprio delle arie di questa follia, no? Dire io ti dico questo, io sono fascista, io faccio il saluto fascista e non me ne vergogno, cioè questo. E poi ancora, è un'analisi allucinante che fa lei, e poi in questo libro fa anche riferimenti americani, spiega una serie di i riferimenti della rivoluzione, di quanto Erdogan ha preso definitivamente, ha cambiato, no, il potere, smantelli i meccanismi giudiziari e politici, cioè questo proprio, progetta i tuoi cittadini e le tue cittadine ideali, lascia che ridano dell'orrore. La ministra americana con il Rolex, che davanti a quelli in gabbia, ai migranti in gabbia, dice di voi non ce ne frega niente, lascia che ridano dell'orrore. Ancora, costruisci il tuo paese. Con questi sette punti si smantella, si distrugge un paese. Quindi ce li abbiamo già. Cioè, la cosa drammatica che è già tutto lì. È quello, è drammatico, cioè, quindi che cosa scoraggiante. È scoraggiante, nel senso che noi qualcosa dovremmo poter fare, cioè più che dire, no? Cioè io faccio uno spettacolo, che cosa si può fare? La domanda è, che cosa si può fare? No, questo è quello che dicevo anche l'altra volta con Oscar e Elga, cioè credo che, anzi ne stavo parlando prima con Elga fuori, io personalmente sono molto scoraggiata, ma per il fatto che vedo che c'è una difficoltà a schierarsi, cioè penso che le generazioni prima di me avessero più facilità di identificarsi anche politicamente in un modo definito, e quindi non so, mio padre mi raccontava che anche al liceo se eri fascista o se eri di sinistra eri identificato anche solo dai posti che frequentavi, come ti vestivi, era molto più facile definirsi in qualcosa e creare una comunità intorno a questo. Al contrario, mi sembra che oggi i giovani, e forse anche io stessa, facciano fatica a trovare un'identità totale, e quindi forse anche una cosa positiva, non lo so, però come dire, il fatto che ci possano avere tante identità rende difficile prendere delle posizioni definite, e delle volte mi sembra che si superi un confine tra bene e male, cioè non so come dire, non rendersi conto appunto dell'orrore, della tragedia che ci sta intorno senza prendere posizione reale in questo senso. E l'unico mezzo che io tento nel mio piccolo, come anche qua siamo stasera, siamo stati l'altra settimana, cioè penso che sia solo la consapevolezza, cioè almeno renditi conto di quello che ti sta succedendo intorno, apri gli occhi sulla realtà, anche su quell'illusione di cui parlavi tu, no? Cioè questo sfacciataggine in cui dire che sono fascista è come concesso senza che ci sia un riscontro di alcun genere, e quindi sai, mi immagino un giovane che non è consapevole delle cose si lascia anche trascinare da questo tipo di comunicazione, e invece come dire avere un ampio sguardo su quello che ci sta intorno è importante, e quindi un po' penso da realtà come questa, realtà sociali, dalla scuola prima di tutto, cioè i luoghi dove passiamo più tempo e dove abbiamo il lusso di poterci permettere di sviluppare un pensiero critico, un pensiero già tanto dici, esatto. Un pensiero oggi. Un pensiero già è un passo avanti, cioè nel senso penso che sia l'unico modo per cominciare ad avere una coscienza, perché mi sento un po' banale a dirlo, ma cioè, mi sembra che manchi una coscienza, appunto, cioè al di là anche della questione politica in sé, appunto quel confine che dicevo tra bene e male sconvolgente, che non si vede neanche più, siamo così abituati all'orrore che non ci sconvolge più, cioè è una cosa veramente... Questo è un problema grande in generale, cioè, no? Penso a quello che ci succede banalmente dal genocidio in Palestina, cioè a un certo punto si è superato un confine su politico, cioè si è raggiunto un confine oltre i diritti umani, e non è l'unica realtà, cioè adesso lo cito come che poi si continua come se nulla fosse, e la cosa che a me sconvolge di più è che nonostante sia peraltro noto, dichiarato anche politicamente come tale, ti viene sbattuto in faccia che comunque se io ho il potere e ho il ciuffo biondo dritto, faccio quello che voglio e nessuno mi fermerà. Cioè, e quindi è questa la parte che a me scoraggia, perché dico vabbè, ok, io faccio il mio piccolo, però poi di fatto se non ho una voce, non ho un potere politico, Non vado da nessuna parte, cioè, sì, sì. O meglio, non lo so veramente cosa è difficile poter dire. Però cosa fare, cioè cosa fare veramente, no? Perché io sono una di quelle attrici, anche autrici, che non credo che la bellezza salverà il mondo, non credo che la poesia salverà il mondo, non l'ho mai creduto, e infatti non lo sta salvando, cioè nel senso che non è quello. Questo serve per mantenere una voce di contro, cioè io un po' penso... No, non solo quello, ma ti serve per mantenere una linea umana, la poesia, cioè ti serve per essere in contatto con l'umano, perché se perdi anche quel filo di contatto con l'umano, allora non so dove si potrà andare a finire, cioè in questo senso è importante, no? Però poi voglio dire... cioè anche i nostri politici, voglio dire, Matteo Salvini ha fatto il liceo classico, quindi voglio dire, ci sono proprio dici vabbè, ok. Quello che mi fa paura è quando si comincia a riscrivere la storia, quando si comincia lì a riscrivere, a sdoganare delle cose, tu riscrivi la storia, racconti delle cose diverse, quindi i giovani avranno delle cose diverse, cioè riceveranno delle informazioni diverse, cioè Barbero non sarà immortale, questo è il problema, che non saranno immortali, anche Mattarella, per quanto Mattarella va bene, ok, però non sarà immortale. Questo a livello politico, poi quindi non lo so, cioè io mi domando sempre qual è il ruolo dell'artista, anche se non mi definisco un artista, sono un'artigiana, una che piace scrivere, fa, costruisce costumi, costruisce cose, oggetti, sono quella roba lì, stendini, cioè no, quelli me ne fate la scenografa, però l'idea, il disegno, mi piace proprio sporcarmi le mani con la parte artistica. Non sono un intellettuale, ecco, io non sono un intellettuale, mi piacerebbe esserlo ma non lo sono, quindi sono più greve da quel punto di vista, sono più terrena, e come terrena mi piacerebbe fare delle cose terrene per fare qualcosa di diverso, no? Mi ricordo che una cosa, per esempio questo spettacolo qua, mi è capitato di farlo in un percorso di teatro in casa, io non lo sapevo, ed era a casa di un politico leghista di un leghista che lui probabilmente non aveva visto il video, ha visto il Medea, ha detto faremo teatro classico. E io sono arrivata, capito, e gli ho fatto tutta sta roba qua sullo straniero, e lì è stato divertente per me, perché l'ho saputo dopo che questo, infatti lui alla fine mi fa bella energia, lui in prima linea a fare il saluto fascista, immagino, esatto, bella energia, e poi non l'ho più sentito, devo dire, però lì secondo me lì è compiuto, per me ho compiuto un vero atto politico, cioè nel senso che vedi un artista, quella che è un'artigiana, che va in un luogo dove non è voluta, non è cercata, e fa una cosa che dà fastidio. Ecco, bisognerebbe, secondo me, dare più fastidio. Noi non diamo fastidio, siamo, cioè, per dall'epoca berlusconiana in poi abbiamo, in generale, la politica, anche quella che era di sinistra, manteneva una plomb, nel senso noi siamo superiori, molti, no? Questo atteggiamento non funziona nella lotta politica. Non funziona, esiste nei salotti di intellettuali, non funziona, no, bisogna, non, c'è la guerra. Questo atteggiamento non considera il privilegio, cioè lo vedo su altri aspetti, diciamo, di discriminazioni, però la cosa di dire io sono oltre, vedo tutti uguali, certo che sono già arrivato lì, vorrei che fossimo già arrivati al punto in cui siamo tutti inclusivi, non c'è razzismo, non c'è discriminazione, di fatto invece non considera le sfaccettature del privilegio, e secondo me questo, almeno per me personalmente, è la lotta più importante, perché se tu non ti rendi conto, e chiunque di noi in parte ha delle discriminazioni e dei privilegi, ma vediamo sempre la discriminazione ma il privilegio che abbiamo, e non ci rendiamo conto che quella è quella la prima forma di razzismo, cioè nel senso che non ti rendi conto delle difficoltà e delle discriminanti che tu non hai rispetto agli altri, non so, cioè io penso, sono una donna e sicuramente ho delle discriminazioni, vivo delle discriminazioni per la società in cui vivo, allo stesso tempo sono una donna, non so, eterosessuale, bianca, privilegiata, cioè insomma benestante, certo. E quindi indubbiamente vivo una parte di questa discriminante e non delle altre, e finché non facciamo veramente propri, diciamo, non creiamo un'empatia su questo aspetto, non so, vedo difficile come poter anche unire nella stessa categoria di lotta una voce unica, cioè è quello, forse anche in questo senso dicevo, vedo della difficoltà nei giovani di identificarsi in un'unica lotta politica, perché di fatto, per quello che è stato anche nel passato, è stata magari una lotta su un grande tema che non ha considerato tutta una serie di discriminanti. Non so se sto posteggiando o argendo il punto, però invece magari andando avanti questo aspetto è venuto più fuori, e quindi tante persone non si sono più identificate in una sola lotta perché ne vivono troppe altre discriminanti. O meglio, da una parte forse si sono raggiunti anche certi... insomma, certe conquiste rispetto a certe lotte, e quindi secondo me il passaggio successivo, cioè faccio un esempio più pratico, forse più semplice, però parlavo con una donna femminista che ormai adesso ha 80 anni e lei a un certo punto, mentre parlavamo, diciamo, dell'evoluzione del femminismo, mi ha guardato e mi ha detto: sai, te lo dico un po' in confidenza, però io faccio molta fatica ad accettare ormai questa, diciamo, queerness, questa idea che non ci sia più un genere identificato. Perché per me, quando io sono cresciuta ed ero tra le prime femministe in Italia, identificarsi nel genere femminile era importantissimo, perché voleva dire mettere il punto su certe discriminazioni fortissime che c'erano dal patriarcato, e quindi eliminare il genere per me è impensabile, cioè vorrebbe dire distruggere tutta la lotta per cui ho lottato fino ad oggi. Allo stesso tempo mi rendo conto, parlando con te, parlando con i giovani d'oggi, con le giovani donne d'oggi, che evidentemente forse invece siamo riuscite a raggiungere un certo livello di conquista rispetto a questo tema, e che quindi la lotta si sia spostata su altri fronti. Però io non avevo mai pensato a questa cosa, perché per me, per la mia generazione di femminismo, invece non è solo quella la lotta, cioè non è solo, effettivamente ci sono tante altre sfaccettature all'interno del genere femminile e anche del non genere oggi, no? Mm-hmm. Quindi questo era ragionamento che... È che poi sia un po', cioè è un po' come... Io nello spettacolo dico: strappatevi il velupendolo del political correct a un certo punto, no? E questa cosa qua, siete tutti woke ancora, quando woke non nasce così, nasce con un'intenzionalità completamente diversa, proprio per dare diritti a coloro che non ne hanno, per i più deboli, no? È diventato lo sfotò della destra, insomma, di una certa parte politica. È che... È sempre lì, è che per passare il passaggio da un punto all'altro poi ci si è dimenticati che comunque ci sono, c'è il genere maschile, c'è il genere femminile, cioè, ed è alienante pensare che non esistano più, per me è alienante, perché c'è ancora la lotta femminista, non abbiamo raggiunto i diritti, ci sono i femminicidi tutti i giorni, quindi non è così. Che poi si siano arrivate altre, no, categorie che si definiscono anche non categorie, va benissimo, però non si può pretendere come di dimenticare quello che c'è, anche quello come noi veniamo al mondo, anche se veniamo al mondo già non genere, no? Quando succede, cioè non è che ce lo inventiamo quella cosa lì, o omosessuale, o ce la inventiamo, cioè tutta una serie di cose, no? E quindi abbiamo un po', cioè siamo passati a volte anche nel, cioè nel ridicolo di alcune, non so come dire, alcune esagerazioni, no? Che hanno portato poi nel non capire più che non è che spogliando te stesso tu accetti l'altro, non funziona così. Tu devi, puoi mantenere le tue tradizioni, ma apri alla, sii curioso, non è quello, non è quello che fa. Quello ha creato un gran casino e ha dato manforte ad altri per dire: ah, ecco, vedi, allora noi ci prostriamo, abbandoniamo, facciamo. Non se, no, non è così. Cioè, non è quello, non è quello. Che, cioè, altrimenti non è, nessuno reciterebbe più Shakespeare, cioè, non so come spiegarmi, no? Io sto pensando anche a un livello artistico. Nell'arte c'è già tutto questa, cioè, è già così l'arte, è sempre stata così. È sempre stata così. Tu prendi siamo... quello che succedeva nell'antica Roma, tra gli antichi greci, oppure, non so, gli anni ruggenti a Parigi, cioè, era già così, c'era già quella libertà, era già quella cosa, soprattutto nell'arte c'è sempre stata quella ricerca nel vedere un pittore, vedere un corpo, è un corpo, la bellezza di innamorarsi di qualcosa perché è bello a prescindere. Sì, anche quella è contaminazione proprio, no? Beh, infatti un po' penso che non a caso ho scelto di occuparmi di arte, ma che forse sia ancora uno dei pochi veicoli in cui effettivamente avere il lusso, insomma, la possibilità di fare militanza, cioè non so come dire, ma appunto anche l'idea di invitarti stasera, di invitare Helga e Oscar la settimana scorsa, in generale il progetto di Cabaret Voltaire ha questo intento di dare voce, dare spazio a punti di vista diversi, non so come dirlo. Cabaret Voltaire è nato per questo ed è nato anche dall'ispirazione dada per questo, cioè quello di mettere in discussione quello a cui si è abituati per proporre degli altri punti di vista e capire se effettivamente questa appunto tradizione che tanto si millanta può essere messa in discussione, può essere rivista, può essere, può dare luce anche su delle cose nascoste, su delle difficoltà, su delle discriminazioni, su insomma. È uno spazio, questo è uno spazio molto bello, molto prezioso, credo io, da sostenere. Insomma, è molto interessante quello che viene fatto qua, secondo me. Non ci sono tanti luoghi a Milano dove vengono fatte così, tanti, non ci sono tanti luoghi in questa città. Questa città si è un po' persa su se stessa. Sul tanto al metro quadro, devo dire. Quindi si è un po' persa lì, si è un po' persa Milano. Milano purtroppo, perché è sempre stata una città molto aperta, Milano molto invece accogliente. E non so cosa sia successo, cioè non so, so. Però siamo qua, insomma, siamo in questa città. Cambiando topico, comunque, in realtà collegandomi un po' a questo discorso, mi chiedevo se vuoi raccontarci un po' appunto questo, l'ispirazione concreta del tuo spettacolo e quindi ti invito a casa mia. La tua realtà della Varona. La mia realtà, tra l'altro farò alla Fringe di quartiere, lo farò proprio in Varona, dietro via Binda. E quindi è molto interessante. E quella zona lì è stata completamente gentrificata, nel senso che c'è un via Binda 33 a sinistra c'è il Forest in Town, che ha di fronte il panettiere che vende a 30 euro al chilo il pane, poi più avanti invece c'è il panettiere marocchino che vende a 4 euro il pane, e poi c'è il calzolaio, ci sono determinate e poi ci sono i loft, cioè Milano è diventata, cioè una volta c'erano i quartieri molto bene e le periferie, a un certo punto la città si è trasformata, proprio la topografia cittadina è diventata a macchia di leopardo cosiddetta, quindi è cambiata, cioè vedi che nascono delle cattedrali nel deserto come Nolo, per esempio il lavoro su Nolo. Sì, ci sono anche delle associazioni che lavorano bene lì dove c'è l'angolo della piazzetta, il bar, c'è adesso il Mosso? No. Il Mosso, quella piazzetta lì nuova, però comunque quello che è stato creato non crea mai una apertura verso le persone di un certo ceto che vivono lì, non c'è una compartecipazione, cioè ti metto la cosa figa lì, la cosa bella lì, costa tantissimo, verranno da fuori, porteranno un sacco di soldi, alziamo il prezzo delle case e dei prodotti, basta, è finita lì cioè se non si fanno dei progetti sociali veri e li fa qualcuno, per esempio non so, abbiamo delle compagnie come Linguaggi Creativi che sono vari anni, l'anno scorso non è stato finanziato ahimè, ma fa un festival bellissimo tutto intorno alla Barona e cerca di creare qualcosa, laboratori, c'è l'ATIR che fa un lavoro incredibile, cioè ci sono proprio delle compagnie che lavorano sul territorio, cioè il Teatro della Contraddizione che fa sperimentazione teatrale, cioè il Comteatro a Corsico, cioè lo stesso Teatro degli Incontri di Gigi Gerzi, cioè ci sono dei vessilli teatrali proprio che applicano questa cosa, la applicano quotidianamente, che è il loro proprio è la loro missione, che è la loro vita quotidiana, ma non lo fa la municipalità, non lo fa il governatore di questa città, cioè non viene fatto, quindi ovviamente Milano si è persa, è perduta Milano, perché se non viene fatto questo tu arranchi, cerchi di stare in questa città, di vivere, però voglio dire, se ti devi comprare una casa ormai in periferia a 5-6 mila al metro quadro, dici quanti soldi devo avere per vivere qua, e questo è un peccato per questa città, cioè bisognerebbe fare una performance teatrale al giorno, che passi sotto Palazzo Marino, che chiami sala, che chiami gli assessori, che richiami gli assessori, che chiami la regione Lombardia, che è ricca di fondi, è ricca di fondi la regione Lombardia per il cinema, per il teatro, per un sacco di attività, e non vengono usati tra l'altro, quindi tante cose, e appunto io sarò al Fringe, sarà molto molto curioso farlo lì, proprio lì dove ciò accade, il teatrante, l'autore, il drammaturgo, insomma prende dalla vita, prende da quello che c'è intorno e lo ingurgita e poi lo rigurgita fuori. Secondo me è questo che io faccio solitamente, no? E tutto può essere di più artato, più romanzato, ma può essere anche molto meno. Cioè, non so, ci sono dei personaggi molto particolari, non ho raccontato altrettanti personaggi. Meravigliosi personaggi che hai raccontato, veramente. Quindi ce n'è, ma io penso che anche se vai in un bar adesso, volendo, qua ci mettessimo ad osservare, ci sarebbero da raccontare mille vite diverse, o anche immaginarsi la vita di ognuno di noi che è qua, no? Una vita altra, e scriverci un testo di teatro. Il pretesto è sempre buono, devo dire. Poi ci sono anche dei buoni compagni di viaggio che sono i libri. Io non sono una, per esempio, che legge molto, perché faccio fatica proprio con gli occhi, però mi piace, quindi quando trovo un'ispirazione la seguo, la colgo. E tra l'altro farò un altro spettacolo sui muri che è nato in tre persone, adesso sono rimasta io, e vedrò come aprirlo, che si intitolerà Muroland. E anche lì è un gambling teatrale, quindi un gioco che fa, dove lo spettatore è veramente complice, e per accaparrarsi la vita al di qua del muro. Succederanno delle cose. Non so se vogliono fare qualche domanda. Ah sì, certo, qualcuno vuole fare delle domande? Fede, vuoi fare una domanda? Qualche curiosità, non lo so. No, se vuoi, scusa, non volevo. No, vabbè. No, ma sono d'accordissimo su tutto il discorso che è stato fatto, su... La sussunzione gentrificante milanese anche rispetto all'arte, la cultura, quanto il pubblico abbia di fatto, sia stato un po' anche obbligato per sostenere le sue strutture a impoverire l'offerta culturale, e dall'altra parte tanto quanto il privato abbia di fatto si sia appropriato di alcuni linguaggi che potevano essere più linguaggi costruiti dal basso, da esperienze artistiche culturali orizzontali, circolari, che si auto-organizzavano e costruivano dei linguaggi che poi al privato sono piaciuti e con i soldi ha potuto renderli più, diciamo, hype, appeal, e anche, diciamo, raccontarli. Però comunque credo che in questo momento buio di cui stavamo parlando prima si stiano creando tante possibilità, e in un momento così critico e anche così, diciamo, come dire, cruciale per chi fa arte, io non sono un artista, ma diciamo per chi fa arte, riuscire a comunicare tramite l'arte alcune tematiche, io credo che in realtà in questo momento così difficile, sotto un po' si stanno costruendo delle nuove forme di organizzazione che fanno antagonismo, o che comunque da queste difficoltà provano a rilanciare dei percorsi artistici, culturali, ma anche politici attivi, militanti, e quindi sono d'accordo, ma nello stesso tempo penso che la domanda che potrebbe essere: ma in queste difficoltà alla fine non ci sono anche delle insomma degli... Queste difficoltà non ci permettono poi in realtà di incanalare un po', anche inforchettare questa rabbia o questo desiderio di cambiare il contesto, la città in cui viviamo, e provare a far passare dei messaggi che vanno anche un po' controcorrente, secondo me. Insomma, questa è un po' la mia domanda, cioè nelle difficoltà, perché poi ci sono assemblee, sono assemblee antisioniste o pro-Palestina che si aggregano, ci sono collettivi di artiste, di artisti o di produttori, produttrici musicali che si incontrano, ci sono esperienze di occupazione che resistono, tipo Leoncavallo, o piuttosto che ZAM, o comunque ci sono anche esperienze militanti che... Certo, dall'altra parte poi c'è, insomma, qui City Life stanno costruendo un nuovo grattacielo, Tommaso Sacchi fa uscire il nuovo bando Milano Evviva, però chiedendo che gli spettacoli e i festival siano, avvengano nei suoi luoghi che sceglie lui, sì, però alla fine cioè, quali sono le persone con cui vogliamo parlare, quali sono i messaggi che vogliamo trasmettere, e insomma, cioè, quali sono anche le realtà che si stanno aggregando oggi. Io non ho nessuna, insomma, poi sì, cioè adesso siamo nella Design Week, quindi voglio dire, ce n'è. Sì, sì. Cioè, indubbiamente ce ne sono, no, sicuramente, assolutamente. Sicuramente, come diceva lui, cioè, il fatto della difficoltà è un po' come dà lo spunto soprattutto, no, all'artista, no? Per esempio, noi teatranti ci stiamo dicendo tra molti di noi, ma forse finalmente con la cosa della, quando, grazie all'identità digitale, no? Finalmente noi saremo unici. Cioè, ci pagheranno un sacco di soldi perché noi non possiamo essere riprodotti, siamo umani e faremo, allora ci siamo immaginati questo distopico ma mica tanto scenario dove noi negli underground saremo vietati, no? Siamo noi gli attori dal vivo e voi ci potete toccare e usufruire della nostra, no? Della nostra performance lì. Non siamo lontani alla fine, perché Trump hanno dichiarato praticamente che Trump ha fatto una dichiarazione, c'è stato ma veramente che veniva da morire da ridere praticamente, cioè, ha dichiarato che gli artisti di Hollywood stanno cospirando contro di lui anche in maniera vampiresca, tipo dei vampiri, per prendere il potere, cioè delle robe del genere, per quello che non vogliono l'identità digitale, eccetera eccetera, no? Quindi effettivamente è una grande opportunità, cioè la crisi è sempre una grande opportunità. Quello che a me fa paura è il muro di gomma, come diceva lei, dire, vedere tutte queste manifestazioni antisioniste e poi non succede niente, un cazzo, cioè continua ad andare, continua. Allora mi dice, cavolo, per dire una cosa, è questo che a me fa paura, il muro di gomma in generale, no? Mi fa paura che esca un bando Milano Evviva e poi ti chiedono, al primo anno è andato bene, tutte le piccole realtà, dice, cavolo, sono alla Barona in periferia, ti alzo la manina, posso avere un po' di soldi, conosco 4A, un angolo della Barona ci penso io, ma solo quest'angolo, no, adesso devi essere iscritto al FUS, devi ricevere il contributo, e allora devo già avere un sacco di soldi, cioè devo avere una struttura. E allora cosa, chi partecipa? Il Parenti partecipa, addirittura la Scala aveva partecipato, il Piccolo aveva partecipato, che senso ha? Quando mai sei venuta alla Scala a fare il teatro di quartiere? Al massimo fa la proiezione l'8 di dicembre. Non lo sa che cos'è stare in un quartiere, lo so io cosa vuol dire, lo sa l'ATIR, lo sa Linguaggi Creativi, lo sa, cioè, la contraddizione, lo sa Com, lo sa. È questo che mi fa paura, no? Che poi ci si riempie di parole che creano un'illusione e poi vai lì, apri il bando e non c'è, e non hai la possibilità, non ci sei in quel bando lì, sei fuori dalle mura, cioè, dalle cerchie. Mi spaventa che sia un dialogo chiuso nelle mura del radical chic, come dici tu, cioè nel senso che alla fine ci si alimenta tra di noi, siamo qua tra di noi, abbiamo tutti lo stesso ideale, credo condiviso, quindi non è che voglio sminuire questo lavoro, però poi di fatto allora mi interesserebbe quasi di più farlo a casa del leghista e vedere che effetto ha sul leghista. Quello. Cioè nel senso, forse quella è una sfida che mi interessa, cioè lì vedo una sfida che può avere, cioè scusa, non è che voglio dire che stasera è stato inutile, no ma è prendersi un territorio fertile, perché allora a quel punto dico, ti sto dando fastidio, sto dando fastidio davvero, perché allora lì sì che sto dando fastidio a qualcuno. Perché danno fastidio, per esempio, gli extracomunitari? Perché gli extracomunitari si prendono quegli spazi che noi non abitiamo più. i giardinetti, le strade, gli spazi, la strada, il territorio. Ma se io vado a fare uno spettacolo in un angolo di una strada, arriva la polizia e mi dice: scusi, lei ha il permesso? Scusi, lei ha pagato la SIAE? Scusi, lei ha pagato l'Impals? Noi come artista di strada, tra l'altro non penso che ci sia più, una volta c'era una piattaforma dove eravamo organizzati, per esempio, c'era una piattaforma, sì, non è proprio il principio dell'artista di strada, perché a Milano l'artista di strada non è mai potuto esibirsi, cioè veniva cacciato, e questo la dice lunga, a parte anni fa che erano più tollerati, no? Quindi bisogna, secondo me è importante riprendersi gli spazi della vita, gli spazi pratici. Sì. Questo è per quello, secondo me, per esempio, da questo luogo, dico, ma questo potrebbe essere un luogo in cui si crea una performance cittadina. Allora, creiamo una performance cittadina, andiamo in corteo. Io ce l'ho una performance sulla morte, però sulla morte che è la morte, ma è anche la morte della città, la morte della natura. Cos'è questa città morta? C'è tutta una allora, da qui si parte, siamo nel centro, andiamo fino alla Triennale e siamo morti. Sconvolgiamo l'idea del centro. E gli diamo fuoco, per esempio, no? Cioè, nel senso che è interessante, perché questi sono centri come qua, questo è un luogo che ha un fuoco prometeico. No, quindi... no, ma infatti io penso che sia anche molto strategica questa posizione, cioè è quasi un privilegio, cioè dovremmo sfruttarlo di più, il fatto di essere proprio qui nel centro di Milano e però di poter fare un discorso che vada a cogliere, diciamo, invece altro esatto, vedremo. Sì, Fede, fallo, sì. Secondo me dovresti. Ma sai quante persone cercano uno spazio che non ce l'hanno, no? Perché non lo devi affittare, perché non c'è, cioè fare anche una call dove potete ospitare, no? Delle assemblee o delle cose, secondo me è interessante. Ci è proviamo, molto interessante. Almeno ci proviamo. Dai, provateci. Va bene, Rossella, a meno che non abbia altro da aggiungere. No, io vi aspetterò poi qua al prossimo appuntamento, alla Barona, al Fringe. Per chi vuole, che ha visto il mio lavoro, io farò un seminario sul personaggio a Belluno, quindi cercatemi ad agosto, dal 3 al 10 agosto, anche non per teatranti professionisti, però chi vuole sfrucugliare anche un testo e una messa in scena e andare a capire, no, come si può partire a creare un personaggio col suo contro, con l'animale, insomma sono tanti metodi, è una cosa divertente, e trovare anche delle cose che possono essere raccontate, insomma, nella scrittura, ci divertiremo e basta, io non posso altro che ringraziarvi. Grazie a tutti e ci vediamo qua alla prossima puntata. Esatto, ci vediamo il 16 aprile con un altro testo drammaturgico legato però al Cabaret Extra Voltaire e quindi al lavoro che faccio con la Marti su Simona Semenic. Ah, bellissimo, benissimo, ci sarò. Alla prossima. Ciao, grazie ancora.